città e il Mugello no. Tu che vieni dal Mugello sei sempre un passo indietro. La prima tappa è Barbiana, ma prima di salire su verso il piccolo borgo dobbiamo passare dal centro di documentazione Don Lorenzo Milani. Lì ci aspettano alcuni ex allievi della scuola di Barbiana. Mi torna in mente l'inizio di Lettera a una professoressa quando il parroco e i suoi alunni scrivono di timidezza. Anch'io temevo fosse una malattia, tipica delle famiglie come la nostra, di una mamma che si intimidisce a compilare un telegramma e di un babbo che osserva e sta zitto. Mi rincuorò sapere che la timidezza dei poveri e dei montanari era un mistero antico e che forse non è né viltà né eroismo, ma solo mancanza di prepotenza, e che in fondo ognuno ha le proprie paure, come le proprie timidezze. Lorenzo Milani era nato in una famiglia benestante e aveva scelto di farsi prete. Per via degli screzi con la curia fiorentina, negli anni 50 venne invitato ad andare a Barbiana. Il Mugello era una punizione e Barbiana lo era ancora di più. Non c'era né luce né acqua, e anche la strada vera e propria non esisteva. Furono i genitori degli alunni a costruirla. Perché in quel posto sperduto non stette solo a dir la messa, ma mise in piedi il primo tentativo di scuola a tempo pieno. Una scuola fatta di 10 ore al giorno, 365 giorni l'anno, dove Don Milani si preoccupava non solo di istruzione, ma anche della salute dei suoi ragazzi, delle loro vite. All'ingresso della scuola ci stava un cartello: a Barbiana si viene per due cose, o insegnare o imparare, se no levatevi dai coglioni. Don Milani usava il linguaggio del popolo, per lui culo era culo, altrimenti ingannavi. I visitatori diventavano maestri, i ragazzi li sbucciavano di domande, usano proprio il verbo sbucciare. I ragazzi arrivavano alla polpa delle questioni a quel modo. Da Barbiana c'è passata tanta gente comune, e gente come Ingrao, La Pira, altri intellettuali e politici da tutta Europa. Nanni faceva il falegname, lavorava anche per i preti. Dopo 8 ore di lavoro gli davano un paniere di pere, quindi la chiesa non la vedeva di buon occhio. Nanni poi era marxista e leninista, così si recò a Barbiana non proprio col cuore aperto. Arrivò lì e trovò questa specie di scuola, questi ragazzi così curiosi che gli chiedevano tutto sul legno e le cornici. Lui fu entusiasta di spiegar loro un sacco di cose. Tanti strumenti da lavoro per fare le cornici di legno allora portavano i nomi di animali, e lui glieli disse: becco di civetta, beccaccino, coda di topo. Gli chiesero perché si usava il leccio e lui spiegò che era resistentissimo. Nanni capitò lassù che i ragazzi facevano astronomia. Don Milani lo chiamò: vieni qua, guarda in questo canocchiale e dimmi su che stella è puntato. Ma mi importa una sega, gli rispose, e gli vomitò una serie di parolacce che merda era la più bella. Ebbero a litigare. Lorenzo Milani lo invitò a venire a scuola: perché te nella vita sarai sempre uno di quei cani che mettono dietro in bauliera e gli tentenna la testa. Tu dirai sempre di sì al padrone. Così Nanni, già più grande degli altri ragazzi, cominciò a frequentare la scuola di Barbiana e oggi è uno dei maggiori animatori del centro di documentazione. Cammino e riscopro il fiato caldo, il soffio che fa. Mi piace sentire il rumore degli scarponi sulla terra, sui piccoli sassi, sulle foglie. Da un lato sgombro di cespugli e di alberi spunta la chiesa. Ci fermiamo a guardarla. La pensilina di legno ci ricorda che Barbiana sta dentro il Parco Culturale della Memoria di Monte Giovi. Posiamo zaini e bacchette lungo il muro. Sergio dice che a Don Milani avrebbe fatto piacere. Curiosiamo tutti intorno. Vado a vedere la piscina. È una vasca di cemento, lunga, stretta e vuota. Mi siedo e faccio penzolare gli scarponi sotto, immaginando l'acqua, il sole, gli schiamazzi. Don Milani combatteva le paure dei ragazzi anche insegnando loro a nuotare. Spiegava come fare senza mai togliersi la tonaca. Li faceva distendere su una panca, a testa in giù, e gli faceva muovere le gambe e le braccia, poi gli diceva di rifarlo in acqua. I miei mi mandarono a imparare a nuotare quando avevo 6 anni. Loro non sapevano neanche stare a galla ed erano terrorizzati dall'acqua. Volevano che mio fratello e io non lo fossimo. Volevano non aver più l'ossessione di vederci sparire per un attimo sotto un'onda più grande di noi. Volevano che fossimo liberi di lasciare le loro mani non solo per attraversare una strada, ma anche in acqua. Non tramandare le proprie paure deve essere uno dei compiti più difficili. Quando nuoto serena sono sempre grata ai miei, che mi hanno stemperato la timidezza nei confronti del mare. Il cartello di legno, a forma di freccia, ci ricorda dove sta il cimitero. La tomba del sacerdote è quasi bianca, molto semplice e senza foto. Ci sono piante, fiori e un piccolo lumicino rosso. Sulla lastra adagiata in terra ci sta scritto Sach Lorenzo Milani, 27-5-1923, 26-6-1967, priore di Barbiano dal 1954. Mi metto seduta, come fanno gli altri. Mi viene spontaneo togliermi il cappello con la visiera. A Barbiana tutto era scuola, le strade, i prati, gli oggetti, anche Don Milani, la sua stessa vita. Fece la lezione persino sulla sua malattia, sulla morte. Un giorno suo fratello arrivò con le radiografie, voleva parlargli in privato. Lorenzo lo invitò a parlarne tutti insieme. Spiegò ai ragazzi il suo male nei minimi particolari. La morte diventava una cosa semplice, naturale. I ragazzi non piansero, non sentirono l'atrocità o la paura. Eda, la perpetua, si mise a frignare. Don Milani le chiese, ma che piange? E l'Eda, lei muore. Don Milani le rispose, le romperò le scatole più da morto che da vivo. Gli ex alunni della scuola di Barbiana si ricordano a mente le parole del testamento. Cari ragazzi, cara Eda, ho voluto più bene a voi che a Dio, ma credo che lui non stia attento a queste sottigliezze e metta tutto sul suo conto. Ci hanno spiegato che ha voluto essere sepolto con la veste da priore e gli scarponi. Ci rimettiamo in cammino verso la bottega di Montegiovi. Dormiremo lì. Quando arriviamo, noto il cartello giallo tondo che indica la presenza del telefono, di quelli che ce ne sono rimasti ancora pochi in giro. Sbircio all'ingresso. Valerio mi chiede se cerco la televisione. Gli dico che non ce l'ho neanche a casa mia, mi annoia. Valerio mi dice che in uno dei tanti libri su Don Milani aveva letto che nel 66 un magistrato aveva portato la TV alla scuola di Barbiano. Don Milani gli aveva detto di rimetterla nella scatola e portarla via. Vedo sul fianco della casa in pietra, oltre la staccionata colma di rose rosse, il prato morbido. Mi tolgo gli scarponi, mi tolgo i calzini, sento il sollievo dell'erba sotto la pelle. Sento l'ultimo sole scivolare sulle guance, sento il respiro farsi lento. Chiudo gli occhi, rivedo la mia scuola media, i professori che una mattina arrivarono a piedi da Firenze. Noi li prendemmo in giro, non potevate prendere l'autobus, vi danno noia le curve. Quando ci fu l'esame di terza media mi dispiacque tanto doverli salutare. Chissà se anche loro li mandarono in Mugello per punizione. Quasi tutti i professori che vengono da Firenze a insegnare in Mugello poi chiedono di essere trasferiti, di tornare più vicini alla città, più comodi. Salire in Mugello non è un vanto. In Mugello c'è stato uno dei modelli di scuola più all'avanguardia che esista e adesso è al primo posto nella provincia di Firenze per l'abbandono scolastico. Perché si è smesso di credere nella lezione della scuola di Barbiano? Perché ora è solo un parco dove venire a ricordare, a farsi le vesciche e a commuoversi? Non credo proprio che a Don Milani farebbe piacere. Da Tamburino, dove abbiamo dormito, che sta oltre gli 800 metri, saliamo ancora. Il bosco di grandi faggi sorveglia una piramide che ci ricorda l'impegno delle donne per la lotta di liberazione. Quando sentivo nominare dal babbo il Monte Giovi, pensavo che di sicuro fosse uno sbaglio. Doveva essere o il Monte di Giove o il Monte Giovane, venuto su da poco. Monte Giovi o era un errore di ortografia o un'abbreviazione venuta male. Ad ascoltare Sergio, che tiene le mani sulle bacchette unite come in un piccolo piedistallo, in realtà si sta cercando di capire di più della sua origine. Nel VI-VII secolo a.C. esisteva un luogo di culto, probabilmente dedicato a Giove. Questi luoghi hanno subito le guerre civili di epoca romana, le lotte tra Guelfi e Ghibellini, l'indifferenza di Firenze prima e la sua decadenza poi, la povertà e le carestie. Per infittire il mistero, su Monte Giovi veniamo abbracciati dalla nebbia. Mi dispiaccio di non vedere oltre, ma Sergio mi dice: ogni situazione ti fa vedere qualcosa, anche la nebbia. Mi guardo intorno e la nebbia si muove veloce e ci alita fresca sul collo. In quante occasioni ho letto l'invito di Calamandrei: se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani. Quante volte ho sentito i partigiani dire: casa nostra diventarono le montagne. Qua non avevano case, non avevano stanze, non avevano tavoli, sedie, divani, librerie. Qua temevano il nemico spuntare dalla balsa, da un bioccolo, dalla nebbia. Sento freddo. Vorrei tornare fra le ginestre e stare lì, nascosta, e non muovermi mai più.